mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Soundcheck. Il suono della musica. DJ Jet Telesco. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telespero, questo è il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24 che da oggi torna nel suo format originale di 40 minuti a partire dalle 15:20. Sono arrivati tantissimi dischi nuovi, produzioni realizzate nel 2013, negli ultimi mesi, ma che saranno in distribuzione anche nel nostro paese a partire proprio dai prossimi giorni. E fra gli album interessanti che ho appena finito di ascoltare c'è questa band che si chiama Zbonix, sotto la firma del producer, batterista, polistrumentista Zach Najor. Il giovane musicista riunisce intorno a sé in studio di registrazione alcuni fra i musicisti più interessanti che si muovono fra il jazz e il contemporary R&B, come il sassofonista Carl Denson, il pianista, grande musicista di strumenti elettronici Robert Walker, Melvin Sparks alla chitarra e altri colleghi che guida in questa produzione che si muove proprio fra il jazz e la soul music con tantissimo groove. E in questo brano, tratto proprio dall'album intitolato Time to Do Your Thing, c'è la partecipazione del vocalist Gregory Porter, che tra l'altro qualche mese fa ci aveva proprio raccontato di questa sua esperienza in studio di registrazione con la band di Zach Najor. Il brano, che riassume un po' i suoni e le vicende musicali di questa produzione, si intitola Issues of Life. Gregory Porter incontra Zbonix qui in apertura del Soundcheck di Radio 24. As you walk through the trials and the tribulations of of Life, una delle composizioni che troverete in questo album dal titolo Time to Do Your Thing, di questa band guidata da Zach Najor chiamata Zbonix, con la partecipazione di Gregory Porter. Facciamo una breve pausa e torniamo con la grande musica di Radio 24 qui per il Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Solo un paio di settimane fa qui al Soundcheck di Radio 24 abbiamo raccontato le vicende musicali dei Buckshot LeFunk, del sassofonista di New Orleans Branford Marsalis, che nei primi anni 90 realizzò due album molto divertenti ma anche innovativi, con una formula sonora che metteva insieme blues, jazz e il suono tipico dell'hip hop di quel periodo. E fra gli artisti coinvolti da Branford Marsalis per i Buckshot LeFunk c'era anche il giovane vocalist pianista californiano Frank McComb, che qui abbiamo ascoltato in Fools, un brano tratto dal suo album The Truth volume 1 di qualche anno fa. Frank McComb torna con un nuovo album live realizzato al Bitter End di New York, un celebre club del Village della Grande Mela, dove ogni giorno dalle 6 di pomeriggio fino a tardanotte si alternano band e artisti di varia natura. E proprio lì al Bitter End, pochi mesi fa, Frank McComb da solo con il suo pianoforte rende il suo tributo al suo artista di riferimento. Remembering Donny Hathaway è dunque il titolo del nuovo album di Frank McComb, che fra i vari brani tratti dal repertorio del grande Donny Hathaway interpreta a suo modo la bellissima Someday We'll All Be Free. Eccola qui un'emozionante interpretazione di Frank McComb dal vivo al Soundcheck di Radio 24. Spins apart. can get you down. Soundcheck, il suono della musica. Tra i giovani vocalist americani che abbiamo apprezzato nelle ultime stagioni c'è anche Sakel Vasandani, nato a Chicago, laureato in musica, studia con il suo famoso concittadino e collega Kurt Elling, due album alle spalle, e in questa ultima fatica discografica intitolata High Fly si leva anche lo sfizio di duettare in un paio di tracce con il maestro del vocalist John Hendrix. Qui Sakel Vasandani, lo ascoltiamo al soundcheck di Radio 24 in questa sua originale interpretazione e arrangiamento di una composizione della compianta Amy Winehouse intitolata Love is a Losing Game, accompagnato dal suo ottimo trio, ovvero Jeb Patton al pianoforte e al Rhodes Fender, Kendrick Scott formidabile alla batteria, David Wong al contrabbasso. Sakel Vasandani per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Got to drive even as I say hi. Your silent eyes louder than a white line. Goodbye, I'll leave you to your crowd. Time moves slow. Chiudiamo questa puntata del nostro soundcheck qui su Radio 24 con un altro album bellissimo, quello del trio del contrabbassista Christian McBride, l'erede di Ray Brown, con i suoi compagni di avventura ormai da qualche anno, il bravissimo pianista Christian Sands e il pirotecnico batterista swing Ulysses Owens. Album intitolato Out Here, il brano è il più groovy del disco, il brano con il quale chiudono il repertorio di questa bellissima pubblicazione che assolutamente non potete non comprare. Il brano si intitola Who's Making Love, il trio strepitoso del contrabbassista Christian McBride a chiudere il soundcheck di oggi. A tutti voi, buon pomeriggio, buona giornata e tanta ottima musica da Giorgio Telespo. Soundcheck. Il suono della musica.